Sono pronto adesso, ferma nella mano. Sono pronto adesso, ferma nella mano. Sono pronto adesso, ferma nella mano destra. Figlio di puttana, te la faccio io la festa. Sono pronto adesso, ferma nella mano. Sono pronto adesso, ferma nella mano. Sono pronto adesso, ferma nella mano destra. Figlio di puttana, te la faccio io la festa. Fatemi trovare un cannone senza tante parole, che ci faccio la festa con me Giovanni Falcone. Franco manna nessuno, se ancora non hai capito, la gente bla bla, vogliono infamare Nico. Eppure qua non c'è Don Vito né Carlito Brigante. Letto bene sul giornale, la Calabria si espande. L'onore mio lo mantengo fisso se mi cercano, come Becchi Mussolino scappa Santo Stefano. E se ti basta, conosco chi spara. Maresciallo, non lo vedi che peso un granchio, io non parlo. E se ti spa, spaventa tutto questo. Se ti spaventa il fresco, rinuncia già più presto. Caro compare, in un bicchiere di Roma su cazzo. Sono infiniti i bei tempi del bravo ragazzo. Alto là, chi va là, fermi e sparo. Questa è la parola di un soldato vero. Sono pronto adesso, frama nella mano destra. Figlio di puttana, te la faccio io la festa. Se vuoi ballare balla, se vuoi pestare pesta, ma non venire presentandoti da gangsta. Sono pronto adesso, frama nella mano destra. Figlio di puttana, te la faccio io la festa. Se vuoi ballare balla, se vuoi pestare pesta, ma non venire presentandoti da gangsta. E fra non c'è problema, ma i soldi vanno e vengono. I soldi rimangono solo se non si spendono. Cento e più modi per moltiplicarli, più problemi se poi riescono a sgamarti. Fratello, fa attenzione, se il mondo t'appartiene, questo mondo di infami, divise e sirene. Fratello, non scherzare, fratello, fa attenzione, questo mondo di infami, spirri nel retrovisore. Questa è vita in diretta, solamente un'ora d'aria. Purtroppo l'ho vissuta in più lontano dall'Italia. Leggevo tutto il giorno e persino andavo a messa. Mi rigeneravo dopo un'ora di palestra. Il cibo era una merda, ma non avevo scelta. E grazie a Dio ne sono uscito e mo racconto pure questa. Qua non hai amici, tu qua non sei nessuno. Ho mandato il benvenuto e ci ho risposto a fare in culo. Sono pronto adesso, frama nella mano destra. Figlio di puttana, te la faccio io la festa. Se vuoi ballare balla, se vuoi pestare pesta, ma non venire presentandoti da gangsta. Sono pronto adesso, frama nella mano destra. Figlio di puttana, te la faccio io la festa. Se vuoi ballare balla, se vuoi pestare pesta, ma non venire presentandoti da gangsta. Stesso blocco, stessa musica, stesso progetto, stessa idea nella testa, stesso ghetto. La droga, le donne, i soldi, il rispetto. That's my jay, my world is a ghetto. Stesso blocco, stessa musica, stesso progetto, stessa idea nella testa, stesso ghetto. La droga, le donne, i soldi, il rispetto. That's my jay, my world is a ghetto. Sono pronto adesso, frama nella mano destra. Figlio di puttana, te la faccio io la festa. Se vuoi ballare balla, se vuoi pestare pesta, ma non venire presentandoti da gangsta. Sono pronto adesso, frama nella mano destra. Figlio di puttana, te la faccio io la festa. Se vuoi ballare balla, se vuoi pestare pesta, ma non venire presentandoti da gangsta.